24, i gialli della storia. Henry John Hines è uno dei grandi personaggi della storia americana e del mondo. È stato uno dei primi a capire il mercato globale. Quanto fosse importante il nome e quanto fosse importante la fiducia del consumatore per costruire un'azienda. Era molto creativo, un uomo unico. Era un gran lavoratore e una persona di sani principi. Era un affarista nato e, sebbene non sia stato lui a inventare il ketchup, è quello che lo ha venduto meglio di chiunque altro al mondo. L'Heinz Company fu una manifestazione della sua visione del mondo, che si riassume nel motto «Fai del bene nonostante gli altri». Henry John Hines è uno di quei pionieri che, grazie alla caparbietà, alla tenacia, hanno cambiato le abitudini, le mode e i costumi dei loro contemporanei. Hines, originario della Germania, all'inizio trova lavoro come rappresentante di mostarda. Poi il colpo di genio, brevetta anche salse per uso quotidiano. E tra queste la più famosa è il ketchup, che diventerà un ingrediente essenziale nei fast food di tutto il mondo. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia, con le testimonianze di Andy Mezich, presidente di Hines History Center, del giornalista Quentin Strabach e del pronipote Andrea Hines, che adesso cura le attività dell'azienda. Pennsylvania, Stati Uniti orientali. È qui che Henry John Hines cresce alla metà del XIX secolo. È qui che giovanissimo ha la sua prima intuizione commerciale. Rafano! Chi ne vuole? Era tipico delle famiglie tedesche lavorare come una squadra. I figli da principio seguivano la tradizione, anche se per lo più non continuavano molto nell'ambito familiare. Hines era molto creativo. Ad un certo punto pensò, ma io posso fare un mucchio di soldi? Posso guadagnarmi da vivere con quest'idea? Iniziò confezionando il rafano che sua madre coltivava nell'orto. Lo vendeva poi per le strade di Pittsburgh, spingendo una sorta di carrettino. Quando vide che la gente apprezzava il prodotto, pensò, perbacco, proviamo con altro. Sua madre era molto religiosa. Indusse il giovane Henry a frequentare il vicino seminario luterano, nella speranza che un giorno prendesse i voti e diventasse un ministro di culto. Ma Hines lascia presto il seminario. Il suo mondo è quello dei numeri e dei conti. Dopo aver terminato il college, il giovane Hines inizia a lavorare nell'azienda del padre. Suo padre aveva una fabbrica di mattoni e il giovane Hines vi lavorò. Lì imparò a misurare le cose, a prendere appunti dettagliati. Si interessava alla chimica, amava le formule e teneva dei resoconti meticolosi. Man mano che cresce, Hines capisce che la fabbrica di mattoni gli va stretta. Inizia a cercare altre idee imprenditoriali. Harry era un gran lavoratore e una persona di sani principi. Può darsi che questo fosse soltanto dovuto alle buone radici calviniste tedesche, però non ne sono sicuro. Ma ad Harry interessano soprattutto le ricette di sua madre. Le elabora, fa degli esperimenti e fiuta un buon affare. Hines torna a puntare sull'impresa ortofrutticola che amava fin da bambino, perché capisce che si può arricchire. Nel 1869, insieme all'amico Elsie Noble, Hines fonda la Hines Noble Company. L'azienda rifornisce i negozi e i ristoranti di Pittsburgh. È l'epoca in cui sempre più persone si trasferiscono dalla campagna in città e in città manca lo spazio per coltivare frutta e ortaggi. La loro impresa vende rafano, sottaceti e crauti. Una delle cose che Henry imparò subito fu che la gente non si fidava dei prodotti in scatola o in barattolo. Spesso, mangiando delle conserve fatte da altri, la gente si sentiva male. Così all'inizio Henry non mise la sua etichetta sui barattoli, mise l'etichetta di altri. E se nessuno si fosse sentito male e il prodotto fosse piaciuto, allora avrebbe messo la sua etichetta sulla produzione successiva. La Hines Noble si espande. La vecchia casa dove Henry è cresciuto dopo che la famiglia si è trasferita nella villa è vuota. Henry la usa per la sua azienda. Da principio è solo un piccolo laboratorio. Due casalinghe tedesche vengono ingaggiate per lavare e conservare gli ortaggi. Usando i metodi di lavorazione e di conservazione tradizionali, i cibi si mantengono più a lungo e possono essere anche trasportati meglio nei vasetti e nei barattoli. Pittsburgh è la capitale americana dell'acciaio. Qui il ferro viene importato dal nord, reso acciaio e rivenduto al sud. Gli operai lavorano oltre 12 ore al giorno. Non avendo il tempo per cucinare, comprano cibi in scatola e precotti. Henry John Hines, ora ricco mercante, abbraccia il credo metodista, una libera chiesa evangelica. Qui incontra Sarah Sloan Young, che viene da una famiglia di origini irlandesi e scozzesi, ma prima di sposarla chiede la benedizione di sua madre. Gli affari vanno bene. Hines accumula una fortuna che reinveste nell'ampliamento della sua azienda e chiede nuovi prestiti per acquistare ancor più materie prime da lavorare. Nel 1875, da un giorno all'altro, a causa di una crisi finanziaria, la banca gli nega il credito, ma Hines ha già ordinato tutto quello che gli serve. Gli agricoltori vogliono essere pagati, ma le banche non fanno più credito ad Henry. Hines non poteva far fronte ai suoi debiti e di conseguenza fallì. Fu una dura lezione. La famiglia precipitò nello sconforto, specialmente i tedeschi americani. Lo considerarono come una sorta di fallimento nel paese che li aveva ospitati e anche lui la prese molto male. Attraversò una fase di profonda depressione. Per diversi mesi rimase immobile a letto, come paralizzato. A risollevare l'azienda ci pensa la madre. Con i suoi ultimi risparmi, madre e figlio costituiscono una nuova società sempre nel campo alimentare. Nasce la Hines Food Company. Appartiene alla madre, a un fratello e a un cugino. Henry John ricopre le stesse mansioni che svolgeva nella vecchia società. Tecnicamente lui era il manager. Sua madre deteneva la maggioranza azionaria, ma di fatto gestiva lui la società, anche se per legge non poteva farlo per via della bancarotta. Era un'azienda a conduzione familiare. Il consiglio di amministrazione si riuniva in cucina. La nuova azienda cresce in modo lento ma costante. Henry John Hines non si risparmia. Lavora nei campi, in laboratorio, nel magazzino, nel reparto vendite. La bancarotta è un'onta che gli pesa molto. Hines fatica a ritrovare fiducia in se stesso. Doveva soldi a molte persone di Pittsburgh, negozianti, fornitori. Si impegnò a restituire fino all'ultimo dollaro, anche se per la legge non doveva. Anche questa fu una delle chiavi della sua vita. Impiegò 4-5 anni per restituire il denaro a tutti i suoi creditori. Hines continua a sfornare nuovi prodotti. Ancora nessuno sa esattamente come si conservino gli ortaggi. La teoria più diffusa è che più spezie si aggiungono, più a lungo si manterrà il prodotto. Proprio partendo da questa credenza popolare, Henry ottiene una salsa particolarmente gustosa dalla cottura del pomodoro. Da questa ricetta rinasce la sua fortuna. Nel XIX secolo ci sono centinaia di tipi di ketchup, ma nessuno di loro si vende particolarmente bene. A parte Henry, nessuno vede il potenziale della salsa rossa. Hines pensò che la gente voleva vedere quello che acquistava e così per i suoi prodotti usò vasetti e bottiglie di vetro. Oltre che dell'industria siderurgica, Pittsburgh è anche il centro della fabbricazione del vetro. Hines non sceglie le bottiglie scure usate dalla concorrenza. Il colore rosso acceso del ketchup risalta di più nelle bottiglie trasparenti. Tuttavia, c'è un inconveniente. Quando si guarda una bottiglia di ketchup, talvolta si vede che la superficie della salsa è un po' scura e gommosa. La parte superiore si ossida. Lui sapeva che alla gente questo non sarebbe piaciuto. Così applicò l'etichetta di carta sul collo della bottiglia. In questo modo il prodotto appariva tutto rosso e invitante. Hines costruisce una nuova fabbrica che esiste ancora oggi a Pittsburgh ed è un monumento dell'archeologia industriale. I prodotti alimentari Hines usciranno da qui per oltre un secolo. Tutta la zona circostante odora d'aceto, allora come oggi il principale conservante della salsa rossa. Hines colloca la piccola fabbrica in mezzo alle acciaierie di Pittsburgh, ma il suo reddito in poco tempo supererà quello dei suoi più ingombranti vicini. Hines è un osservatore acuto. capisce subito le opportunità che nascono dall'ampliamento della rete ferroviaria americana, che permette di trasportare tanta merce in più in tutto il paese. Utilizza le nuove tratte ferroviarie principalmente per consegnare le crescenti quantità di frutta e verdura. Ma è lui stesso a viaggiare in treno per promuovere e consegnare i suoi prodotti. La Heinz Company continua a crescere, ma non è la sola a guadagnare dalla domanda crescente di cibi pronti. La concorrenza copia le sue idee e i suoi metodi e non sempre mantiene lo stesso livello qualitativo dell'originale. In un libero mercato, senza regole né leggi, Heinz deve combattere per sopravvivere, anche con mezzi poco leciti. Quando voleva eliminare qualcuno dal mercato, comprava tutte le bottiglie di vetro disponibili in città. Quindi usava quelle che gli servivano e caricava tutte le altre su un'imbarcazione, che veniva poi affondata nel fiume Allegheny. Così stroncava la concorrenza. Il rapporto con le sue maestranze è caratterizzato da un clima completamente diverso. Qui Heinz si distingue. La Heinz Company è forse la più strana fabbrica degli Stati Uniti. Ogni giorno le donne ricevono grembiuli e cuffie puliti. In fabbrica si può fare sia la doccia che il bagno e c'è anche la manicure. Le mani che lavorano i cibi devono essere curate e pulite. Anche questo contribuisce alla migliore conservazione dei cibi. Ma c'è di più. Gli operai Heinz hanno a disposizione un servizio sanitario gratuito per i momenti di pausa. Ci sono nelle fabbriche confortevoli terrazze dove passare in compagnia quei momenti e poi sono previsti anche eventi culturali, gite in carrozza nel parco. Tutto questo non nasce solo per motivazioni religiose, ma per un rispetto umano enorme che lui ha per i suoi dipendenti. Ma sta per nascere un problema familiare che modificherà le sorti dell'azienda. Quando Harry si convince che suo fratello John non lavora abbastanza, gli chiede di lasciare l'azienda. È una questione delicata, visto che John è il comproprietario della Heinz, mentre Harry ne è solo il manager. John Heinz non seguiva la stessa rigida routine del fratello. Aveva un carattere e uno stile di vita profondamente diversi rispetto a quelli di Henry. Era possibile che andasse in fabbrica un tantino più tardi, che non fosse molto puntuale, mentre Henry era sempre molto puntuale e scrupoloso in tutto, e pretendeva che anche gli altri lo fossero. Henry liquida il fratello John e ne rileva le quote. Risultato vittorioso nella disputa familiare, diventa proprietario unico della compagnia. Può darsi che il fratello avesse le sue colpe. Tuttavia, Heinz è spietato nel liquidarlo. John aveva fatto delle cose importanti. Aveva inventato una selezionatrice di sottaceti e si era occupato di tutto, dall'aceto ai generatori elettrici. Insomma, anche lui aveva dato il suo contributo, perché era molto capace. 1898. Henry lascia l'America per la prima volta. Vuole tornare a visitare il villaggio dei suoi antenati. E sua moglie ha bisogno di aria più salubre a causa di problemi polmonari. Prima di arrivare in Germania, però, Heinz fa tappa a Londra, dove visita Fortnum & Mason, il più antico e rinomato negozio della città. Heinz piomba nell'ufficio londinese senza appuntamento e presenta i suoi prodotti. Finora nessuno in Europa acquista cibo dall'America. È l'inizio del commercio internazionale dei prodotti Heinz. Dopo la sosta a Londra, Heinz raggiunge la Germania, il suo paese d'origine, dove non era mai stato. Lì è trattato come lo zio ricco che viene dall'America e Heinz risponde con generose donazioni, come quella di un prezioso candeliere alla chiesa del paese. Da quel momento tornerà in Germania ogni anno. Henry Heinz torna a Pittsburgh. Il viaggio ha definitivamente compromesso la salute della moglie. La sua malattia ai polmoni continua a peggiorare. Per Sara è l'inizio di una lunga agonia. Sono entrambi rassegnati, non nutrono più speranze. Dopo la morte della moglie, Henry John Heinz scrive in una lettera: Dio ha parlato e noi resteremo in silenzio. In memoria della moglie, spentasi a 51 anni, Heinz fa costruire la Sara Heinz House, un centro ricreativo per giovani in attività ancora oggi. Fedele al suo credo religioso, Heinz non si risposerà mai. riprende con fatica la sua vita. Non so se avete notato che sui prodotti Heinz c'è il numero 57. Bene, la storia dietro il numero 57 è questa. Heinz stava andando a New York per affari e vide un cartellone pubblicitario che reclamizzava 23 modelli di scarpe e pensò: 23 modelli di scarpe, accidenti, 23 modelli, è davvero notevole, mi chiedo quanti prodotti ho io. E iniziò a contarli a mente: 54, 55, 56, 57, 57, è un numero interessante. Gli piaceva. Quando tornò a casa scoprì che in realtà aveva più di 57 prodotti, ma il numero gli piaceva tanto che decise di metterlo su tutte le sue etichette. È una delle più grandi idee di marketing di tutti i tempi. Promette diversità e continuità insieme. Nel 1905 riacquista la casa della sua infanzia, che era andata perduta con il fallimento della sua azienda. Per l'occasione ha un'idea geniale. Carica su una zattera l'intero edificio senza smontarlo e la fa rimorchiare lungo il fiume Allegheny fino ai suoi stabilimenti. Tutta l'America ne parla. Nel 1893 Henry John Heinz era presente alla Columbian Exposition, la fiera internazionale di Chicago. Gli assegnarono uno stand situato al terzo piano dell'edificio per esporre i suoi prodotti. Beh, pochissimi visitatori sarebbero saliti al terzo piano. La posizione era molto penalizzante. Così Heinz ebbe un'idea a dir poco ingegnosa. Stampò delle targhette laminate d'oro e sul retro di queste targhette fece incidere la seguente scritta: portala allo stand Heinz al terzo piano e riceverai un omaggio. Quindi tutti quelli che facevano ingresso nella fiera vedevano il luccichio dell'oro con la coda dell'occhio, prendevano la targhetta e leggevano: oh guarda che bello, ci danno un omaggio, e si lanciavano su per le scale, prima a decine, poi a centinaia, poi a migliaia. Salivano tutti al terzo piano, dove trovavano lo stand Heinz con le sue piramidi di ketchup e di sottaceti. Fu lo stand più visitato della fiera. Heinz ovviamente non si ferma qui. Affascinato dall'elettricità, installa la prima insegna al neon degli Stati Uniti. Ma le iniziative di Heinz non si fermano al marketing. In un momento in cui il libero mercato e senza regole precise si batte per una legge che istituisca severi controlli sulla produzione, sia dal punto di vista igienico che relativamente all'uso di additivi chimici negli alimenti. Henry John si batte strenuamente per sostenere la necessità di una nuova legislazione. I suoi colleghi imprenditori sono tutti contrari, anche il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, non ritiene opportuno regolamentare il libero mercato. Heinz incontra molte ostilità. I proprietari dei bar temono che le chiese levino la loro voce contro il commercio degli alcolici. Il ketchup di Heinz viene boicottato ed egli stesso, quando si reca in fabbrica, viene spesso insultato per strada. Heinz diventa uno dei capi politici del movimento, il che aiuta anche la sua azienda. Insomma, conduce una battaglia che lo premierà. Nel 1906, il presidente Roosevelt firma il Food Act, la legge contro gli additivi tossici e le frodi alimentari. Il Drug and Food Act può essere considerato uno degli eventi principali e più importanti per il successo della Heinz. Negli Stati Uniti, il settore della produzione di generi alimentari fino a quel momento era rimasto quasi del tutto senza regole. La maggior parte della concorrenza non è in grado di rispettare da subito le nuove norme. Il vantaggio della Heinz Food Company risiede nell'igiene, a cui è sempre stata data grande importanza. Heinz è il numero uno assoluto negli Stati Uniti. La domanda cresce e i clienti tornano ad essere fiduciosi. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Heinz è tra i più accesi sostenitori dell'entrata in guerra contro la Germania e da allora la sua famiglia rompe ogni contatto con la Germania e si rifiuta di parlare tedesco. Alla fine della guerra, Heinz ha 75 anni, ma non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Ogni giorno continua ad andare in fabbrica e la domenica va sempre in chiesa. Fuori dalla fabbrica, Heinz è circondato dall'amore di ben 11 nipoti, con i quali viaggia spesso. Molti di loro in seguito entreranno nell'azienda. Il 14 maggio 1919, il fondatore della Henry John Heinz Food Company muore all'età di 77 anni. Gli operai e gli impiegati fanno una colletta e donano alla città una statua in suo onore, che ancora oggi si trova nell'atrio della sede dell'azienda. Nel suo testamento, Henry esprime il desiderio che venga costruita una chiesa in memoria della madre. La chiesa si trova oggi nel campus universitario di Pittsburgh. Henry amava dire: «Non sono diventato un pastore, devo trovare altre vie per fare del bene agli altri». Oggi la Heinz è uno dei principali marchi internazionali e conta 33.000 dipendenti. Il suo fatturato annuo è di circa 8 miliardi di dollari. È leader in molte zone del mondo. Solo negli Stati Uniti la sua quota di mercato del ketchup è del 98%. A Pittsburgh l'azienda è presente ovunque, sostiene lo sport e la vita sociale. La Heinz Endowments Foundation è lo sponsor più importante della città. Heinz è stato uno dei primi a capire il mercato globale. È stato anche uno dei primi a capire il valore del marchio, quanto fosse importante il nome e quanto fosse importante la fiducia del consumatore per costruire un'azienda. La Heinz Company, così com'era durante la sua vita, fu una manifestazione della sua visione del mondo, che si riassume nel motto: fai del bene nonostante gli altri. Non c'è spazio per gli inetti e i truffatori. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.